Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Se fossi un supereroe, vorrei essere la principessa Sissi. Sarei felice se tutto il mondo fosse al mio cospetto e le decisioni che potrei prendere sarebbero molto positive per il bene della mia città. Sono Aurora, sono di Bologna, ho 21 anni e studio lettere a Bologna. Se avesse un titolo la puntata di oggi, o se avesse un hashtag se frequentate Twitter, sarebbe Il mondo che vorrei. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:06. Il programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia. Raccontiamo la storia di qualcuno che abbia voglia di raccontarcela e poi noi la mandiamo in onda. La storia di oggi è la storia di Aurora. Aurora è una ragazza giovane che ha poco più di 21 anni e la storia che ci ha mandato racconta il suo mondo ideale, cioè com'è il mondo che vorrebbe lei. E la stessa cosa che lei ci ha raccontato, ho cercato di immaginarmela io, ve la racconterò più tardi, la chiedo anche a voi. Il mondo in cui voi vorreste vivere, com'è fatto, da chi è composto, dove si troverebbe, che clima potrebbe avere? 349-238-6666, facciamo questo patto, che voi mi confessate realmente qual è il mondo in cui vorreste vivere e io sospendo il giudizio. Lo facciamo tutti però, eh? Lo faccio io sicuramente, lo fa Fabio Cantatore di là dal vetro, lo fa chi ascolta, lo fa Aurora, lo fa Margherita Ina. Sospendiamo il giudizio, perché quando si parla del mondo ideale si va sempre molto molto vicino a delle cose che spesso potrebbero essere anche scomode e noi oggi cerchiamo di raccontarle senza scomodità. 349-238-6666. Gianluigi, ad esempio, sul profilo Facebook del programma scrive: il mio mondo ideale sarebbe formato da 3 continenti, uno per gli uomini, uno per le donne e uno vuoto, dove vanno quelli che vogliono andarci e quando vogliono stare insieme, vogliono riprodursi, eccetera eccetera. Nel continente maschile si giocherebbe la play, si berrebbe birra, si parlerebbe di banalità, il mercoledì calcetto, eccetera eccetera. Nel continente femminile si guarderebbe Desperate Housewives, si parlerebbe di tutto e si leggerebbero gossip tutto il giorno davanti a una tazza di tè. Ripeto, sospendiamo il giudizio sul mondo ideale, ognuno c'ha il suo e ognuno se lo immagina come meglio crede. Sandro: nel mondo ideale vorrei essere l'uomo invisibile. Angelo: vorrei vivere in un mondo dove si possa dire di no al principio gerarchico, dove ogni essere umano sia libero di scegliere di avere rapporti con gli altri uomini esclusivamente secondo regole morali, senza aspettarsi nessuna ricompensa. È anche un po' complicato il mondo ideale delle volte, non si capisce molto chiaramente. 349-238-6666, la storia di Aurora parla di un mondo che è veramente al confine tra una grande fiaba e una dittatura orribile, direi. Più tardi leggiamo la sua storia. Leggendo la sua storia, dopo vi leggo un pezzo che è tratto da un libro che mi ha suggerito ovviamente Tiziano Bonini, io non l'avrei mai trovato, che si chiama Storia dell'Utopia. E in questo libro, per accademici puri, c'è un pezzo che racconta esattamente il sogno, il luogo ideale di Aurora, ed è l'utopia della country house, l'utopia della casa di campagna. Vi leggo due righe di quello che dice questo Mumford, più o meno per introdurre il racconto di Aurora. Nella country house il possesso è basato sul privilegio e non sul lavoro. I diritti sulla terra, che furono quasi sempre ottenuti storicamente con la forza e la frode, sono il suo fondamento economico. Per mantenere al loro lavoro gli artigiani e gli operai che vivono nella casa di campagna, è necessario impedire che essi accedano alla terra per proprio conto, provvedendo sempre che l'usufrutto della terra vada al proprietario e non a chi lavora. L'ideale della country house è quello di un'esistenza completamente priva di funzioni, o al massimo, tutte le funzioni che sono prerogativa di un uomo civile vengono svolte da funzionari. Poiché questo ideale non può essere realizzato nel mondo reale, dato che è del tutto incompatibile con l'eredità biologica dell'uomo, è necessario, nell'utopia della country house, occupare il tempo con giochi, sport e altre cose piacevolmente inutili. 349, ho avuto un attimo proprio, sai, vuoto totale, fortuna che è scritto lì. 349-238-6666, sarà per l'utopia della country house o sarà per i luoghi ideali in generale. Il mondo in cui vorreste vivere, ok? Roberta scrive un sms: vorrei un mondo dove nessun essere vivente ne mangi un altro, dove l'empatia sia la regola. E poi ringrazio Stefano che mi scrive come primo messaggio della giornata: la principessa Sissi non è un supereroe. Guarda Stefano, ed è proprio da qui che io voglio partire per raccontarvi la storia di Aurora. Se fossi un supereroe, vorrei essere la principessa Sissi. Vorrei essere bellissima e amabile, la ragazza più rispettata da tutti. Vorrei copiare il suo atteggiamento in toto. Il suo amore per lei è nato da bambina, quando in edicola uscivano i giornalini con le sue storie. Mi piace l'idea di avere le sue caratteristiche. Sarei felice se tutto il mondo fosse al mio cospetto. Le decisioni che prenderei nella veste di principessa sarebbero molto positive per il bene della mia città. Da grande mi vedo come un insegnante, mi piacciono le lingue, ma il mio sogno è scrivere romanzi fantasy. Bisogna prima di tutto partire dall'insegnamento e dall'educazione. Ritornerebbe come un tempo, entrambe le cose. Le materie di insegnamento sarebbero la scherma, la pallavolo, il canto, le scienze, la pedagogia. Le scuole ritornerebbero nei grandi collegi. Vorrei che le vie fossero invase di carrozze. Vorrei che la nobiltà e l'aristocrazia esibissero la bellezza dei loro vestiti sfarzosi, per opera di qualche sarta abile e geniale. Uomo e donna con i loro abiti regali girerebbero per la città per essere ammirati. Le famiglie apparterrebbero a un proprio feudo o ad una dinastia. Come prima cosa, se fossi una regina, farei in modo che la moneta non diventasse uno strumento di malafede o di commercio. La popolazione bolognese ripristinerebbe le antiche mura che un tempo sorgevano sulla città. Creerei dei luoghi di aggregazione per i giovani. Le terme tornerebbero al loro splendore. Farei abbattere i condomini e le trasformerei in casolari di campagna, distanti dalla città. Le famiglie numerose vivrebbero sotto lo stesso tetto. Gli uomini sarebbero i capi famiglia. Vorrei che le guerre non ci fossero più. Manderei subito degli aiuti umanitari con medici e infermieri per aiutare i popoli in difficoltà. Catturerei chi vuole essere cattivo e lo educherei in modo che non lo facesse più. Vorrei far conoscere a tutti antichi filosofi, Freud, Jung, Steiner. La gestione di ogni singola persona sarebbe seguita secondo un percorso grazie all'aiuto individuale di esperti in materia. Lascerei spazio alle rivoluzioni del popolo, qualora fossero necessarie. Lascerei libera la piazza come luogo e simbolo di aggregazione. Riaprirei gli antichi canali e nei canali farei navigare le flotte e i galeoni per la loro bellezza. Farei in modo che ogni famiglia avesse il proprio orto per coltivare l'indispensabile. Il teatro sarebbe il primo vero intrattenimento della gente. La cultura e l'arte sarebbero promosse nelle virtù nazionali. Inaugurerei palazzi con balli festosi. Sono di Bologna, di questa città mi piacciono gli stimoli culturali che è a misura d'uomo, ma non mi piace al contempo il caos, il vivere frenetico. E sogno di viaggiare. Ogni donna verrebbe corteggiata da tanti giovani bellissimi e si studierebbe l'arte del galateo. Se ogni donna è soddisfatta, anche il rendimento della società sarebbe migliore. I figli sarebbero più felici e anche i mariti. I mariti lavorerebbero per tutto il giorno per garantire ricchezza e destreggiarsi nella vita di corte. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. La storia di Aurora è una storia che è a metà tra una fiaba e un sogno reazionario. Un sogno in cui tutta la popolazione è ai suoi piedi, in cui lei ha totale potere decisionale su tutto e tutti, dove tra galeoni, casolari di campagna e padri capofamiglia sembra di essere tornati indietro di 5 secoli. Una sorta di medioevo. Però in fondo, chi di noi non ha mai pensato a un mondo ideale in cui vivere? Un luogo immaginato a nostra immagine e somiglianza. Nella letteratura religiosa gli dei sono fatti ad immagine e somiglianza degli uomini. Anzi no, è il contrario, sono gli uomini a essere fatti a immagine e somiglianza degli dei, come se gli uomini stessero vivendo il mondo ideale creato per loro. E il giardino dell'Eden è il massimo esempio, no? Cioè, prima che Adamo faccia quella boiata della mela imbeccato da Eva, a sua volta imbeccata dal serpente, e questo costringesse gli uomini a lavorare e le donne a partorire nel dolore, ecco, prima di questo avvenimento, gli uomini vivevano nel mondo ideale, che infatti era chiamato paradiso terrestre. Io nella mia vita ho avuto più di un mondo ideale in cui vivere e in cui passare la mia vita. Sono cambiati in base al periodo e all'età. Ad esempio, quando avevo 10 anni avrei voluto vivere in un mondo fatto solo di campi di calcio, in cui le regole erano quelle di una partita e ci fossero sempre palloni disponibili per tutti. In quel mondo era sempre domenica, in modo che si giocava solo per fare la partita e non per allenarsi e faticare senza divertirsi. Poi sono arrivato a 15 anni, attorno ai 15 invece il mio mondo ideale era un mondo in cui non esistesse la scuola, in cui tutti nascevano con le nozioni già in testa. Non c'erano interrogazioni, compiti in classe e soprattutto bocciature o esami di riparazione. Quando poi ho iniziato ad andare in barca a vela avevo circa 18 anni e a quel punto speravo che le case fossero le cabine delle barche, che il tempo fosse sempre buono, con la giusta brezza che spingesse la barca dove serviva. La famiglia era il tuo equipaggio e la spesa si chiamava cambusa. Tutti sapevano navigare come erano in grado di guidare l'automobile. Immaginavo il mondo come una specie di Waterworld, vi ricordate il film con Kevin Costner, in cui il mondo è sommerso e le città sono delle specie di isole galleggianti. Ecco, sono passati un po' di anni da allora. Adesso ne ho 37. Continuo ad avere dei sogni e delle ambizioni, ma il mondo ideale non ce l'ho più. E non so se è un eccesso di realismo, se è mancanza di fantasia o inaridamento cinico. Cerco di vivere le mie giornate come meglio posso e di esaudire piccoli o grandi desideri, continuando a frequentarli e facendo sì che questo sia il posto migliore in cui vivere. Si parla del mondo ideale oggi, seguendo il racconto di Aurora. Attenzione però, il mondo ideale non è quello che vorrei essere. Cioè, diamo per scontato che siamo noi, ma che viviamo in un mondo che ci piace, ok? Per cui, ad esempio, Max, il mio mondo ideale c'è già ed è fatto di boschi di conifere, montagne e inverni nevosi, solo che non c'è in mezzo Firenze, la mia città. Il mio mondo ideale è un mondo senza comunisti. Il mondo ideale è quello che ci ha prospettato a Genova per noi. Mio nonno, scrive Antonio, diceva che il mondo non è brutto, è la gente che lo fa sembrare brutto. Poi è arrivato un messaggio di Giulia che dice il mondo ideale è un luogo dove non c'è rivalità, non c'è corsa al potere, egoismo, gelosia, ma condivisione. È chiaro che se uno ha voglia di raccontare il proprio ideale, il mondo ideale lo racconta completamente, no? E quindi dando sfogo a ogni desiderio recondito, nascosto, che magari non si ha il coraggio di ammettere. Aurora questo coraggio ce l'ha avuto, l'ha preso a due mani e ci ha raccontato sostanzialmente che lei vorrebbe essere la principessa Sissi. Pronto Aurora? Pronto. Come stai? Bene, bene. Dove ti trovi adesso, Aurora? Sono a casa. Che non è particolarmente comica. Ok, a Bologna. Dove abiti a Bologna? In che zona? Era Bolognina. Ok. Quindi, sì. No, non so dove sia, però immagino che sia una zona, la piccola Bologna. Esatto. Senti Aurora, tu hai 21 anni e fai l'università. Esatto. Cosa studi? Studio lettere. Studi lettere, sei al primo anno, giusto? Al primo anno, giusto. Che esami stai preparando adesso? Storia della filosofia. Wow. Quindi stai studiando, dimmi qualche nome di qualche filosofo che c'hai sotto mano. De Santis. Mm. E poi... Non li stai leggendo, vero? Non ce li hai lì nel libro, Aurora? No. Ok. No. Quando è che hai l'esame? Ho l'esame mese prossimo. Va bene, in bocca al lupo per l'esame. Senti, Aurora, veniamo a sta principessa Sissi. Che innanzitutto, che differenza c'è tra la principessa Sissi e un supereroe? Perché alcuni mi dicono che lei non è un supereroe. Diciamo, è una figura di riferimento. Sì. Ok, quali erano sti giornalini che uscivano in edicola con la principessa Sissi? Perché io ho sempre solo visto dei film molto vecchi con lei che... Ma quando ero piccola io uscivano questi giornalini che è come adesso dire le Winx. Ma quando eri piccola tu, scusami Aurora, saranno stati 10 anni fa, non 50, giusto? 10 anni fa, sì sì, infatti dico la moda un po' come cambia, sì. Certo, cioè l'hai cambiata la moda dalla principessa Sissi alle Winx. Senti Aurora, invece volevo chiederti questa cosa, in questo mondo, ma ti fa così schifo il mondo in cui vivi, Bologna, la realtà in cui stai, no? No, ci sono dei momenti che mi fa un po' schifo, però... Ma cosa non ti piace in particolare, Aurora, scusami? Mi piace che sorridi qualsiasi cosa tu dica. Dimmi cosa non ti piace in particolare. In realtà, in particolare, ma la freddezza dei rapporti umani. Hai degli amici, Aurora, vero? Dimmi che hai degli amici. Sì, diciamo che sto cercando di entrare nel mondo di crearmi quella rete di amicizie forti. Quanti amici forti hai adesso? Diciamo che è un numero molto ristretto. Tipo 2-3? Esatto. Ok, sì. Ma questo non è un problema, avere amici, diciamo, amici intimi, un numero risicato di amici intimi, no? Sì, cioè diciamo che entrare nel gruppo già è un po' più complesso. In quale gruppo, Aurora? In una compagnia grande? In una compagnia. Ma che cosa che tu vorresti fare? Cioè ti piacerebbe entrare in un gruppo di 15 persone? Esatto, sì, già ci sono in un gruppo. Ci sei in un gruppo? Sì, sì. E che cosa fate nel tempo libero? Noi cantiamo in un coro. Ah beh, quindi già avete delle cose da fare. Un coro di chiesa? Un coro giovanile. Che della parrocchia, dell'oratorio? No, è quello delle superiori che continua a cantare. In che senso continua? Che non si ferma mai, mai, non mai? Non si ferma, esatto. Anche cioè, in questo a tempo momento indeterminato. Noi non lo sentiamo, ma lui sta cantando da qualche parte. Cioè, diciamo che una volta alla settimana si trova per cantare. Ok, questa è una cosa, mi sembra bella, Aurora. Sì, è bella, okay. È una bella cosa. Ok, ma da dove arriva allora questo desiderio di comandare, diciamo, dei sudditi? Cioè, tu vorresti essere una regina, in sostanza? Sì, io vorrei che tutti, diciamo, è un po' una forma che mi prendessero di più in considerazione, allora tutto quello che dico è che bello quello che dici. Ah, ho capito, cioè vorresti essere un pochettino più, vabbè, tu dicevi adorata, semplicemente avere un pochettino più di attenzione, ma ci sono un sacco di metodi per farlo, a parte che in sé non è un valore secondo me, e te lo dice uno che sta davanti al microfono tutti i giorni, ma a parte questo, ci sono un sacco di modi, ad esempio se tu fai un corso di teatro. Lo faccio, sì. Ah, lo stai facendo, perfetto. Quindi vedi, fai un corso di teatro, ti fai il tuo spettacolo, sei sul palco e hai la gente che ti guarda, no? Esatto. Cioè, quindi in realtà, non voglio fare, diciamo, lo psicanalista delle 4:26 del pomeriggio. No, però succede così Sì, se tu sei sul palco, in quel momento hai la tua tutta l'attenzione. Ok. Esatto. Quando scendi un po' di meno, tu dici, però, un po' di meno, sì. Però anche stare, guarda che anche stare sempre sotto i riflettori è tosta, È tosta, infatti. Io non lo so come sia, però immagino che sia complicato. Però tu c'hai sta roba della principessa Sissi. Ciao, sta roba c'è di puntare molto in alto, a volte dico, ma perché sono qui? Che io ho delle, capito un po', è quel senso. Cioè, allora, diciamo ora, tu hai delle ambizioni molto alte, ok? Sì. E questo in sé non è un male, no. Direi, anzi. Cioè, dipende dalle ambizioni che si hanno, no? Sì. Che le tue sono legali, e, diciamo, è un mondo ideale in cui ti piacerebbe vivere. C'è questa cosa, non capisco molto questa questione del li voglio tutti sotto e alle mie dipendenze. Però, insomma, magari è una fase, Aurora. No, è una fase, secondo me. No, secondo me mi stai dando il contentino. Non mi... No, no, sì, sì, sì, no, mi tratti come uno scemo. Mi dici, sì, no, sì, è una fase, Matteo. Sì, guarda, però, poi no, mi passa. Per esempio, magari se tu vedi, non, gli sfarci dei palazzi dove una volta c'era il re e la regina, sì, un po' ti viene da pensare perché. Ma diciamo è una cosa estetica, cioè che ti piacciono i drappi, gli abiti di una volta, quello. Sì. Ma esistono in un sacco di posti le rievocazioni storiche. È presente dove c'è della gente che si veste come un tempo. Secondo me, se tu tipo cerchi su internet, si chiamano rievocazioni storiche più o meno, dovresti trovare. Se tu vai su Google, le conosco, benissimo, cerchi rievocazioni storiche, secondo me, diciamo, ti allontani da un sogno reazionario che non è male, tutto sommato. Magari è un misto tra voglia di rivoluzione del popolo e la reazione. E certo, niente, mi stai dando il contentino, Aurora. Però no, io starei ora a parlare con te, ma devo mandare la borsa, purtroppo. Quindi ti ringrazio per il racconto, ti auguro tanta fortuna, come a tutti auguro. Ciao Aurora, grazie. Buona giornata. Ciao, Matteo, ciao, anche a ciao, te, ciao, ciao. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Aurora è, credo, a Venezia. Ma però forse anche no, è semplicemente perché vedo un leone, non è che per forza a Venezia. È però in una piazza, è appoggiata a una statua in marmo di un leone, ha su un cappottino nero e una sciarpa arancione, e così sembrerebbe una ragazza legata, diciamo, al presente e alla contemporaneità. Ma c'è un dettaglio che svela in realtà A, il motivo per cui avevo pensato che fosse a Venezia, B, il suo amore per il passato, ed è nella mano sinistra, nascosta, quasi invisibile, un'antica maschera di carnevale. Utopia. Sostantivo femminile. Quanto costituisce l'oggetto di un'aspirazione ideale non suscettibile di realizzazione pratica? È un'utopia, la perfetta uguaglianza tra gli uomini. Ideale etico-politico destinato a non realizzarsi sul piano istituzionale, ma avente ugualmente funzione stimolatrice nei riguardi dell'azione politica, nel suo porsi come ipotesi di lavoro o per via di contrasto, come efficace critica alle istituzioni vigenti. Etimo, nome coniato da Thomas More nel 1516, con le voci greche U, non e topos. O topos. Topos o topos? Topos, topos. Topos, l'abbiamo trovato. 349-238-6666. Questa cosa di Aurora, della principessa Sissi e del mondo che vorrei, ha scatenato davvero un putiferio sui social network del programma, sul profilo Twitter, sul profilo Facebook e anche al 349-238-6666. Diciamo, io la cosa che avevo chiesto all'inizio della puntata era quello di sospendere il giudizio e di immaginare semplicemente il mondo che volevamo. Il mondo che volevamo, il mondo che vogliamo, forse è difficile da mettere in pratica, forse no. Anzi, più tardi voglio leggervi un altro pezzo del libro che mi ha prestato Bonini per questa puntata, Storia dell'utopia, che è il finale, che spiega come in realtà il fatto di dirsi ma per avere il mondo che vogliamo bisogna smuovere troppe persone e troppe volontà e quindi non ce la faremo mai, in realtà è solo una prerogativa delle persone pigre e bisogna partire dalle cose piccole e dalle cose che conosciamo per immaginare il mondo che vogliamo e crearlo. Non so se è il caso di Aurora, ma tant'è. Ripeto, la cosa da cui partire per questa puntata era semplicemente sospendere il giudizio e provare ad immaginare il mondo come lo volevamo. Come scrive Rocco, il mio mondo ideale è l'anarchia, quella vera, non quella che tutti intendono. Vorrei la vera anarchia come utopia pura, niente odio, niente violenza, solo felicità. Sottolineo che non mi ritengo anarchico perché il nostro mondo non è pensabile. Vabbè, Rocco, qui ci fai tre salti mortali proprio sul concetto di utopia. Ecco perché appunto volevo leggervi le ultime pagine di questo testo, ripeto, che si chiama Storia dell'utopia, che ripercorre come l'utopia è nata tra gli uomini, come è cresciuta, insomma, da Tommaso Moro in giù. Sono concetti anche molto complicati che io quindi non provo nemmeno ad approcciare, però c'è la parte finale di questo libro che più che essere semplicemente la parte conclusiva è una sorta di sprone verso tutti quelli che pensano che in realtà la vita che facciamo non è soddisfacente, però è difficile averne un'altra. È proprio un modo per cercare di dire che le cose, tutte le cose grandi nascono in sostanza da cose piccole. «I Il compito principale dell'abitante di Utopia è riassunto dalla frase finale del Candide di Voltaire, che dice così: «Lasciateci coltivare il nostro giardino. Lo scopo del vero utopiano è la cura del proprio ambiente, non la cura e lo sfruttamento dell'ambiente altrui». Di conseguenza, le dimensioni di Utopia possono essere grandi o piccole. Essa può cominciare da un solo villaggio e può abbracciare un'intera regione. Un po' di lievito farà lievitare l'intero pane. E se un autentico modello di vita utopica si radica in una particolare comunità, può ramificarsi sopra un intero continente. La concezione che nessun effettivo cambiamento si può operare nella società finché milioni di persone non lo hanno deciso e non lo hanno voluto è una delle razionalizzazioni care ai pigri e agli inetti, poiché il primo passo verso l'utopia è la ricostruzione dei nostri ideali, le sue fondazioni. Si possono gettare ovunque, ovunque noi siamo, senza altre chiacchiere. Il compito più importante che ci aspetta in questo momento è di costruire castelli in aria. Non dobbiamo avere paura che il nostro lavoro vada perduto. Se le nostre utopie sorgono dalla realtà del nostro ambiente, non sarà difficile gettare delle fondamenta al di sotto di esse. Senza un piano concordato, senza un progetto a grande respiro, i piccoli mattoni della nostra costruzione potrebbero tranquillamente restare nella fornace. Poiché un disaccordo fra le menti degli uomini prelude ad una rapida rovina di qualunque cosa possano costruire. L'ultima parola è un invito alla perfezione. Quando si realizza ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scompare. Stamattina sono stato, poco prima di arrivare in radio per la puntata, sono stato da un notaio per un atto. Quegli atti che si fanno dal notaio, per cui ti leggono delle robe ininterrottamente, tu dici di sì fingendo di capire, poi metti delle firme e gli stacchi degli assegni tra i 2 e i 3.000 euro. E mentre questa signora, molto brava, molto capace, molto elegante, mi spiegava tutte le cose che io cercavo di capire inutilmente, a un certo punto io le ho detto: certo che secondo tutte queste regole uno passerebbe la voglia di fare qualsiasi cosa e poi anche di sottoscriverla. E lei mi ha risposto: questo mondo non è il mondo ideale in cui noi potremmo vivere, ma cerchiamo di renderlo. Allora, di renderlo tale. Ed era perfetta la puntata di oggi, e quindi ringrazio il notaio per avermi detto, regalato questa frase. Arrivano messaggi, diciamo, come era prevedibile, contrastanti riguardo al racconto di Aurora. Tipo Nicola sul profilo Twitter del programma, che voi siete qui, R24, scrive: ricorda un po' 1984, dove immagino non sia l'anno ma il romanzo. E poi ancora Giusva scrive sempre su Twitter: vorrei vivere in un'autentica democrazia guidata dal sottoscritto. Vabbè, così è troppo semplice, per il motivo che non mi fiderei di nessun altro. Qualcuno scrive: Aurora for president. E io gli ripeto: guarda, allora non hai capito, Aurora non vuole essere presidente di niente, lei vuole essere sovrana assoluta e sostanzialmente vivere in quello che Lewis Mumford definisce l'utopia della country house. Chiudo oggi col messaggio di Stefano da Forlì, che dice: anche mia figlia, 17 anni, viveva nel mito della principessa Sissi. Siamo stati a Vienna, ha scoperto quant'era stronza la vera Sissi e le è crollato il mito. Grazie a lui, grazie a Fabio Cantadori, a Margherita Ina e grazie soprattutto ad Aurora. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Patrizia, ho 42 anni, sono di Novi di Modena e la storia di domani è la mia. Parla di una bici molto speciale. Questa è la mia storia e io sono qui.